ufficiale l'inizio del Voltiamo Pagina, leggermente in ritardo, 8.06 minuti di questo magico mercoledì 5 giugno, primo mercoledì del sesto mese del 2024. Un saluto a Silvia e Stefano in vacanza in Canada, quindi con orari decisamente differenti, avranno modalità d'ascolto nel file per riascoltare i format del Breakfast Club che troveranno online sulle piattaforme legate alla prima colazione in diretta, il Breakfast Club Fujiko. Cominciamo allora con Lorenzo, una presentazione che sa un po' di compito in classe, però non è esattamente così, anche se Silvia col suo fare giustamente da prof ma allo stesso tempo accattivante nelle presentazioni, prima di congedarsi per questo piccolo stacco ha lasciato tre libri a Lorenzo in presentazione per il Voltiamo Pagina. Lorenzo, allora comincerai tu nella prima parte della rubrica letteraria e troveremo modo di svolgimento di questo compito che ti è stato assegnato. Posso dire un compito quanto mai piacevole, però Lollo? Assolutamente piacevole, ma anche molto emozionante sostituire una voce come quella di Silvia. Beh, al 333-180-9494 attendiamo la co-conduzione e la comunicazione per quanto riguarda il Voltiamo Pagina, oltre che le risposte al quiz. Io non so niente di questi contenuti, sarà una sorpresa anche per me. In prima lista all'ora di presentazione di questo terzetto che ti ha lasciato Silvia, hai deciso di portare? Ho portato L'albero custode di Katia Balmelli. Ed è un lavoro che a quanto pare ti ha coinvolto. Sì, sì, mi ha coinvolto, devo dire, mi ha colpito come libro, perché è un libro ambientato nel 1900, nella Valle del Ticino, e parte in medias res, parte con questa morte di quest'uomo di nome tale Mario, e anzi all'inizio, nelle prime pagine, si avverte quasi un senso di inizio di un giallo, anche perché per il fatto che vengono avvisate le sue due sorelle, e le sue due sorelle con estrema calma reagiscono a un'informazione così, credo, così importante, così ferale, esplosiva, sì, come quella di ricevere la notizia della morte del proprio fratello. E da lì il libro inizia, parte dalla nascita proprio di Mario, ricostruisce la sua vita, che viene interrotta in alcune pagine da una scrittura e da una stampa corsiva per distinguere quando si torna al presente, alle sorelle che si incontrano, che vanno all'obitorio. E niente, alla fine non mi sono accorto leggendolo che non era per niente un giallo, ma anzi l'unica cosa che si investigava era proprio la scoperta di sé, della propria identità, il capirsi. E per carità, è sempre difficile capirsi ed è sempre un tema che attrae sempre, ma soprattutto qui, in questo caso, quando il capirsi, non voglio svelare, ma il capirsi è diverso da tutti gli altri. Si nota, si comprende di essere una persona che ha tendenze particolarmente diverse, movimenti psicologici della propria mente, e talmente tanto vari e lontani dal quieto vivere, dalle persone tra virgolette comuni, che è ancora più difficile, ancora più sofferente il trovarsi. E questo libro, tramite questi ricordi, tramite questo narratore onnisciente in terza persona, ci racconta ricordo per ricordo la vita di questo Mario. E mi è piaciuto perché la scrittrice non si ferma magari a raccontare i momenti, come si è capito, come è arrivato, in un excursus, in una filippica magari della sua mente. No, invece racconta proprio come i dettagli, come i piccoli ricordi della vita. No, si hanno sempre ricordi un po' misti, un po' frammentati. Certo. E tramite questi ricordi misti, frammentati, lui arriva un giorno a capire chi è. Ma non esiste un giorno in cui dice, ah, ok, sono questo. No. È un insieme, piano piano, è un percorso. E quindi questo mi riporta, ascoltandoti attentamente nella tua precisa ed emotiva anche presentazione, che ogni vita è speciale, che ogni percorso è speciale e che viene raccontato dalle cose semplici. In realtà Mario chi era, se vogliamo dare così due indicazioni come personaggio? Un ragazzo di paese che è primogenito di tanti figli, che si approccia subito al mondo del lavoro. Siamo nel 1900, il padre e appena cresce un minimo gli dice devi portare a casa i soldi, lo stipendio, il pane, un ragazzo semplice, devi aiutare la famiglia. Lui si butta in questi piccoli lavoretti, prima lavora come falegname, poi come in un birrificio. Sì, è un operaio. E quindi sì, da questa vita semplice la trasformazione nel cogliere che ogni aspetto è unico e speciale, nel ricordo che non è unicamente legato a un innesco, ma a un insieme di cose, e le sorelle, anche loro in un percorso di ricostruzione per loro stesse nel ritrovarsi intorno a questa notizia ferale che arriva della sua scomparsa. Quindi può essere questo un pochettino un, diciamo, motivo di sintesi della presentazione, Lorenzo? Sì, sì, assolutamente. La morte, anche come viene trattata, come punto di non ritorno, la paura a volte di affrontare il vivo. Questo Mario era una persona che, tenendo dentro un grandissimo segreto, era burbero, era un orso. Era un sì, ostile, reagiva. E quindi le sorelle raccontano in un passo che avrebbero voluto dirgli, fargli delle domande in più, ma non se la sono sentita, aspettando quel giorno che poi non arriverà mai. Non è mai arrivato, quindi una sorta di continuità che resta aperta nel dialogo. Allora, giustamente Lorenzo ha detto, beh, per me è una bella esperienza aver letto e leggere i libri di Silvia, bella quanto venire poi in diretta a presentarli, per cui ci terrei a tenere questo lavoro, e io lo capisco, però aggiungo che io ho portato, non dico un libro a sorpresa, ma aggiungo però che è stata una presentazione già effettuata al Voltiamo Pagina, Grave disordine con delitto e fuga di Ezio Senigallia, per Terra Rossa Edizioni, collana sperimentali che abbiamo conosciuto grazie a Libreria Ubic in collaborazione con Radio Città Fujiko e il Voltiamo Pagina, anzi ringraziamo la Libreria Ubic. Ecco, questo sarà il libro in premio nel quiz che vi proporrà Lorenzo. Io metterei un po' di musica adesso, Lollo, poi torniamo in diretta a breve per continuare a dialogare su questo lavoro. Io per il momento, tu hai selezionato un brano che metteremo prima della pubblicità, ok? Durante la richiesta di risposte per il quiz. Did Europe, lui è Robert Wyatt. Intanto ne approfitto per chiederti autore, anzi autrice, titolo e casa editrice del lavoro di cui hai appena dato questa parte iniziale di informazione. L'autrice è Katia Balmelli, il libro è Albero Custode, il titolo del libro, e la casa editrice Gabriele Cappelli Editore. Dreams of yesterday. Cat nel disco Cuckooland di The Europe. Cuckooland, la terra dei fuori di testa, ecco, così si può tradurre. Siamo mancati un po', Lorenzo, tu ci sei mancato. Molto, molto, ne ho sentito la mancanza. E ogni tanto le tue uscite proverbiali restavano così, aleggiavano nell'aria. Perché voi sentite Lorenzo giustamente qui compassato e concentrato, seppur preciso. Ogni tanto in redazione allo stesso modo, però arrivava qualche uscita particolare che magari col tempo veniva apprezzata. Allora, grazie a Luigi che riporta il buongiorno che contraccambiamo con bravo Lorenzo. E allora ringraziamo Luigi. Grazie, grazie mille Luigi, grazie. È un libro molto corposo quello che hai appena presentato. No, un libro di 170 pagine. Ok. Intenso, raccontato, la scrittura è leggera, si legge bene, con un velo di malinconia. Si sente quel tocco di... È percepibile, ecco. L'autrice, puoi raccontarci qualcosa sull'autrice? Ma a dire il vero sull'autrice è il primo libro che leggo. È un'opera, è per te un'opera prima. È un'opera prima. Ma per lei magari no. Sì, sì. È ambientato, se ho capito bene, nelle valli del Ticino. Sì, sì, non viene mai, non c'è mai un momento, una precisione, c'è scritto dietro il libro, però si avverte da questo accento lombardo che si è nel nord Italia. Vi sono frasi o modi di dire anche dialettali? Sì, sì, assolutamente. Per la Cappelli Editore, il lavoro come titolo Albero Custode, che già dal titolo Angelo Custode, Albero Custode, vi sono attinenze, immagino. Sì, sì, con questo castagno al centro della piazza su cui si affaccia, su cui abita lui, questo con cui lui dialoga, riflette e assapora momenti chiave della sua vita attraverso quest'albero. E non vogliamo svelare anche in questo caso, ma la sua è una scomparsa violenta, è una dipartita naturale, o andiamo a svelare troppo? Andiamo a svelare troppo, voglio lasciare il mistero nel lettore. Tu hai portato un brano per quanto riguarda, sì. Non hai voluto chiaramente portare una playlist completa, magari col tempo arriveremo anche a questo, ma per quanto riguarda il brano da te scelto, hai portato Rocketman di Elton John. Perché? Perché proprio a riguardo del non sentirsi capiti, quando lui, ad esempio, c'è una scena particolare in paese, al bar, e tutti gli uomini con i loro schiamazzi provano a farsi notare dalle ragazze di paese, e lui non ce la fa a farlo, non riesce, prova ma appare ridicolo, si sente goffo, stupido. Peggiora la sua situazione per imitare gli altri. Esatto, per imitare gli altri, e quindi in queste situazioni... E quale canzone migliore se non Rocketman? Cioè voler diventare un razzo e partir via e a vedere tutto da lontano. Scomparire in quel momento. Sì. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. act as cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Pop di grande gusto, un successo per Elton John. Il quiz ideato da Lorenzo per avere però il libro di Ezio Sinigaglia, che già abbiamo conosciuto, questa storia d'amore con attrazione fatale tra un grandissimo dirigente d'azienda e un fattorino, che appunto questo dislivello e questa disparità viene riportata allo stesso modo con una grandissima, tanta è il dislivello, tanta è l'attrazione che questo grande dirigente ha per il giovane. Grave disordine, beh, lui è un ingegnere, quindi deve avere tutto sotto controllo, quindi capita un grave disordine con Delitto e Fuga per Terra Rossa Edizioni, è per voi in palio quest'oggi, in quanto giustamente Lorenzo vorrebbe tenere il libro di cui è stato incaricato in presentazione dalla nostra Silvia Albertazzi. Intanto Sergio Fanti scrive: occorre spiegare a Lorenzo che costituiscono parte fondamentale del format i bisticci senza senso tra conduttore e ospite. Chiaramente sta parlando di Silvia, che si parlano sopra con cose tipo: te l'avevo già detto io, no non l'hai detto, beh non l'ho detto ma l'ho pensato io prima di te. Invece voi siete molto seri e andate d'accordo, e in tutto ciò bravo Lorenzo. Grazie sempre molto gentile. E poi comunque ogni coppia di conduttori ha le sue modalità, no Lorenzo? Sì, per sì, cui sì, noi sì, litighiamo fuori onda, esatto. Avevi pensato al quiz, a breve la pubblicità, quindi ti lascio la linea per presentare quello che volevi portare, per far avere il libro di cui ho dato brevissima sintesi presso libreria Ubik in Viernerio 30. A te Lorenzo. Beh, anzi sì. 27, scusate, libreria Ubik Viernerio 27, perché ho detto 30 non lo so, vai. Beh, si parlava di Elton John e quindi la domanda riguarda proprio Elton John. In quale anno gli è stato dato il titolo nobiliare di Sir dalla regina Elisabetta II per i servizi resi alla musica e alla beneficenza? In che anno è stato portato al premio di Sir, cioè di baronetto, sì, a di quanto baronetto, pare, Elton John, appunto, per quanto riguarda la corona di regina Elisabetta II d'Inghilterra? 333-180-9494. In quale anno è stata consegnata questa onorificenza, sì, a Elton John? Musica, pubblicità, aspettiamo le vostre risposte e subito dopo torniamo in diretta con il Voltiamo Pagina. Ribadisco, 333-180-9494. A tra poco. nuovo in diretta con il Voltiamo Pagina. Vi abbiamo lasciato con il quiz e la risposta è arrivata immediata, e non solo l'anno ma giorno e mese completa la risposta di Paola, che subito ha scritto 24 febbraio 1998. Confermi Lorenzo? Confermo, complimenti a Paola. Potrà ritirare da oggi pomeriggio nel tardo pomeriggio di Ezio Sinigaglia, grave disordine con delitto e fuga, da Terra Rossa Edizioni. Intanto già ho portato, anch'io ho provato, almeno con un brano, di dare colonna sonora a questa presentazione. È Blue Train di John Coltrane, dei capolavori assoluti, uno standard jazz meraviglioso. L'unico disco per John Coltrane pubblicato da Blue Note. Di treni, di stazioni si parla in questo libro di un autore che amo tantissimo, anche se ho letto solo un altro libro suo, è un'eredità marcolliana per quanto riguarda la conoscenza di Philippe Besson, classe 1967. Guanda ha pubblicato altri romanzi, io però non posso dire di lui leggete tutto, perché ne sono rimasto affascinato dall'unico romanzo che ho letto dal titolo Non mentire. Evidentemente l'aspetto menzognero e mendace è nella narrazione di Besson, con questo titolo che andrò in presentazione a breve, La notte mento, sempre edizioni Guanda, e vedremo un po' i contenuti di questo viaggio notturno. Beh, il treno, Lorenzo, è sempre affascinante come mezzo di locomozione, tu ne fai uso? Sì, sì, per spostarmi da Rimini a Bologna. Immaginavo, spesso con il treno. Sì. Il treno, beh, è motivo di conoscenze così brevi, magari, o meno brevi, che sono istantanee, ma allo stesso tempo a volte sono anche molto intense, molto particolari. Sì, sì, io feci una chiacchierata una volta con un giocoliere che mi presentò Kundera. Ah. Sul treno, un incontro bizzarro. Però il treno ti dà queste emozioni. È letterario allo stesso tempo, vedi? Sì. Allora, nel viaggio, la vita, non vorrei cadere nella retorica, ma la vita già di per sé è un viaggio, no? E questo viaggio si dice che in alcuni momenti importanti diventa un percorso non solo a ritroso, ma che ci appare tutto in una volta come lo scorrere del treno presente ai finestrini. Molte volte al passaggio livello, se restiamo così concentrati, cerchiamo di vedere quanta gente all'interno dei vagoni, cosa stanno facendo. Almeno io da bambino, quando ci si fermava a passaggio livello, aveva questa sorta di voyeurismo, no? Di vedere quanta gente in questo treno, ma cosa stanno facendo, cosa stanno pensando, e lo sfrecciare di queste vite, perché di vite si tratta. Allora, La notte mento, anche se qui l'aspetto menzognero probabilmente è da sottolineare unicamente in una capacità di raccontare e raccontarsi in diversi personaggi quanto mai variegati in questo momento che li porterà, tra l'altro, un'ambientazione abbastanza simile alla tua, anche se sulle Alpi francesi, e raggiungono una località svizzera di villeggiatura. Troviamo, per motivi quanto mai diversi, motivi di spostamento in un venerdì sera, quindi momento di inizio weekend, un centinaio di passeggeri che sta prendendo l'intercity notturno 5789. Non voglio apparire come le voci al così che annunciano l'arrivo, un treno a cuccette di quelli troppo lenti e vecchi per i nostri tempi, in partenza da Parigi per Briançon sulle Alpi. Non sanno ancora che purtroppo in quel viaggio capiteranno cose strane. Non lo sa Alexis, medico quarantenne, fragile e romantico, che sta andando a liberare la casa della madre, quindi che si sta avvicinando purtroppo a quello che è un distacco nel momento che chiaramente burocratico vede nella parte materiale di questo istante una capacità di confrontarsi con ricordi, oggetti e percorsi percorsi di vita. Non lo sa Victor con la bellezza dei suoi 20 anni, che si trova casualmente su quel treno perché ha perso il TGV ad alta velocità, e nemmeno Giulia, che arriva trafelata, i due figli al seguito, per portarli in montagna dai nonni. Quindi finite le scuole, uno stacco di vacanza anche per i ragazzi. Mentre il treno sta viaggiando nella notte, persone che difficilmente si sarebbero incrociate si incontrano. Una coppia di anziani, questa è la parte che mi ha colpito di più, gioca a carte con un gruppo di studenti, un uomo e una donna si raccontano le proprie paure. Ed è un'intimità forzata, se vogliamo, una costrizione a non mentire in questo caso. E dietro le apparenze, dietro questi racconti, saltano poi fuori le vulnerabilità di questi personaggi, che trovano in queste ore, che possiamo definire tranquillamente sospese, in queste ore veloci, ma fino a un certo punto, se non fosse che ne dà l'idea la velocità così non troppo intensa del mezzo che di per sé è attempato. Beh, la breccia per uscire dalla solitudine e dalla routine viene portata proprio da queste conversazioni, per uscire dalla solitudine, dalla routine e dalle proprie menzogne. Io svelerò, anche perché diverse cose, che allora perché lo stai presentando, perché di Philippe Besson io volevo portare l'attenzione, se non avete mai letto niente, a parte la sua capacità narrativa, la sua capacità nel dettaglio, la capacità emozionale di coinvolgere nella lettura, lo scriver bene, ecco, e allo stesso tempo portare tanti aspetti che sembrano diversamente normali a una normalità speciale, per cui abbiamo delle attinenze anche con quello che ha portato Lorenzo poc'anzi. Non è una trama con uno svolgimento intrecciato oppure il classico plot. Sono i libri che piacciono a me, perché non mi piace tanto perdermi in trame intricate. Preferisco sempre avere qualcosa che intrighi di più il mio pensiero. Quindi, tra virgolette, succede tutto ma non succede nulla. Esattamente, fino alla fine, che sarà la fine. Ti passa la vita davanti agli occhi, come lo sfrecciare del treno, no? Quando stai aspettando che il passaggio a livello ti dia il via libera per continuare nei tuoi percorsi. L'idea che mi ha dato questo libro, e per quello che ho portato Blue Train di John Coltrane, è, indiscutibilmente questo aspetto. È un giorno di partenze per le vacanze, i bambini sono liberi dalla scuola per 2 settimane, vanno a trovare i nonni. Lontano, una giovane donna è impacciata da una borsa troppo pesante che tiene nell'incavo del gomito. Un uomo trascina una valigia recalcitrante e un altro scruta febbrilmente il numero delle carrozze. Un altro ancora fuma un'ultima sigaretta con una certa fiacchezza o con una malinconia. Chissà, una coppia di anziani avanza lentamente. Alcuni controllori discutono tra loro, indifferenti all'agitazione. Fra poco il treno partirà per un viaggio di più di 11 ore, attraverserà la notte al confine francese. Per il momento i passeggeri salgono a bordo felici, oppure esausti, oppure preoccupati, o addirittura niente di tutto questo. Alcuni di loro saranno morti al sorgere del sole. Thank you. vi ho già svelato tanto, però come del resto i libri che mi affascinano di più, non è tanto il finale, non è la spettacolarità, non è una trama intrecciata, è quello che dal punto della sensazione riescono a comunicarti in diversi motivi, il percorso, il passaggio, la velocità o l'apparente velocità, l'arrivo che non è un arrivo, il motivo di conoscenza di altri personaggi, anche se per un attimo o per un segmento molto breve, tra l'altro, la diversità che allo stesso tempo diventa tra di loro motivo di conversazione e di unione, la eterogeneità dei personaggi stessi che in uno dei pochi casi, i libri con tanti personaggi a me non è che così affascinano particolarmente, però in questo caso sono talmente ben narrati e sono come tanti, non è un libro a episodi, assolutamente, però danno idee di questi episodi di vita che vengono confrontati tra motivazioni di viaggio, allo stesso tempo improvvisamente l'aspetto più banale nel procedere con la conversazione diventa un motivo di gioia o un motivo di preoccupazione o un motivo di stanchezza o di routine di vita. Domande su questo libro, Lorenzo, vuoi saperne di più? Sì, se si evincesse il significato di questo titolo. Infatti ti dico, l'unico interrogativo che mi sono posto, se non che fosse una contraddizione, perché in questo caso la notte è quanto mai sincera, quindi la notte mento mi ha un pochettino portato fuori strada. Oppure è un ossimoro, magari esattamente voluto, sì, un ossimoro voluto. Veloce perché sono già le 8:47 minuti, quindi parliamo di treni, parliamo di stazioni, parliamo della mia amata Serenissima, la stazione della città, la Serenissima principessa dell'Adriatico, la stupenda Venezia, la stazione Termini di Venezia è dedicata a una santa. Insomma, la risposta, chi è questa santa? Me lo scrivete al 333-180-9494 e per voi La Notte Mento di Philippe Besson, edizioni Guanda. Quando si arriva a Venezia, annunciano Venezia. Posto tu Lorenzo oppure un tuo omonimo? No, è sicuramente un mio omonimo. E la risposta è anche esatta. Venezia, Santa Lucia. Grazie Lorenzo. Beh, per quanto riguarda la presentazione che ho portato, Philippe Besson, La Notte Mento, edizioni Guanda, è per te in libreria Ubic in Viernerio 27. Complimenti da Lorenzo. Grazie. Magari Paolo si crede simpatico, ha scritto Sant'Onorè. No, quello è il protettore dei pasticceri, lo sapete, sì, no? Non lo sapevo. Ma no! Luigi oggi è arrivato un pelo in ritardo, risposta esatta. E anche Dino scrive Santa Lucia, giustamente. Poi c'è la correzione, vediamo se sto leggendo bene. Sì, la correzione dice Santa Lucia, ma era troppo facile. Ho capito, Paolo, che era troppo facile, però sai che non voglio portare ascoltatrici e ascoltatori a googlare, che schifo di termine, a googlare, mamma mia. Quindi faccio dei quiz immediati, facili. Domani in mostra il format Voltiamo Pagina è terminato, condotto da Lorenzo Pauri e William Piana. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, a breve, Liberi Dentro, anticipato dall'Edipeo Enciclopedico. Poi come ogni mercoledì il Rock Live, prima però rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Domani puntata speciale tra Palazzo Roncale e Rovigo e Fratta Polesine, città natale di Giacomo Matteotti, e ci sarà un doppio approfondimento in mostra sui 103.1. Non ti posso chiedere di prendere il file adesso, Lorenzo, sì. Però insomma ricordo dei nostri impegni post diretta che appunto si svolgevano, però ti aspetto mercoledì prossimo per un altro Voltiamo Pagina. Grazie. Intanto mille, ringrazio a te e una buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori sui 103.1 di Radio Città Fugico, mi raccomando puntuali alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao.